avevo regalato, uno di questi qua gli avevo regalato, gli ho detto guarda usatelo, gli ho detto 5 facciamo, praticamente il 750 te lo sono pilota come niente, infatti ha fatto così, lo prendeva, ha preso e gli ha fatto due fuori dietro, gli ha agganciato due banane e infatti capilottava il 750 o 550, sempre aveva piccato il rosso. Il prezzo dato del 2000 euro. Ho capito, ho capito. Va bene, va bene. Ma lo trovano. Adesso prima vediamo di prendere una cosa adesso, 200 euro questa settimana. Poi in seguito vediamo un po' di prendere qualche lineare 24 volte, se lo trovo la parte di capellista, se lo trovo 200-300 euro, ma lo prendo e gli trovo quello che c'è dentro, gli faccio due fuori dietro e glielo metto sotto. Per il batte, quanto che se ne frega, il batte lo lascia ridurre, quello esterno, e gli metto il coso, il modello 500, lo ZG, che lo va fino a 1000, o se no l'altro ZG che c'ho, che ce l'ha Giovanna giù a casa sua. Cos'ha il 1300? No, Giovanna non ha lineare, c'ha un coso, metto l'altro, capito? Quello con la dove c'è l'accordatore dell'antenna. C'è la magnetica, quello lì, l'alimentatore da IPH12 regalato e l'MB2-4 che ho regalato. E lì a posto con il microfono, poi c'è la bestia, aveva portato il 2009, aveva pagato 90 euro, e io invece avevo modificato il colore scorpione, gli ho messo la mascherina del 2009. Ci ho fatto diventare il 2009 con le 4.000 mi sembra modificato, invece è solo la facciata, la maschera sua di Giovanni ce l'ho lavorata con lui, perché c'è con le 4.000 e quando mi serve c'è la maschera del 2009, non vado a guagliare, ci metto quella che è molto più bella e così ho fatto. Ma perché non gli metti l'antenna su? Devo cercare di... quello bisogna trattare come faccio io. Ma qualcuno, bisogna essere in due qua, devo staccarle il cavo grosso davanti alla TV. E al posto del cavo grosso davanti alla TV ci metto le 58, faccio scendere a casa sua, con il tubo. E davanti alla TV lascio quella della parabola, intanto a lei della parabola non ne ha fatto nulla della parabola centralizzata, capito? Utilizza quello il cavo che l'ha nuovo. No, c'è mi porto il cavo sotto, gli metto compro la mia 27 anni di quello, intanto viene 50 euro, quindi per l'antenna è sempre una 50 anni, allora metto, l'ha fatto apposta dalla del centro, capito? Almeno modulare, giovane, tranquillamente c'è tutto. Solo che poi se parlate in due vi fate insomma fondo scalamanettone. Sì, vabbè, non succede nulla, non è che devo ascoltare con la sorella, no. Avremo tutti due lo stesso canale, non è quello il problema. No, non mi dà nessun fastidio a me, capito? Anzi, la mia intenzione è quando ho visto l'effetto 250, dicevo 50 euro, 3 mesi fa, stavo per farlo, per comprarlo e fargli adeguare, fargli una sorpresa, perché il primo apparecchio che ho fatto Giovanna quando era piccola, che era l'effetto 250, guarda che c'era quella roba mia, una bambina di 6-7 anni, a guardare l'effetto 250, che quello c'ha due marotte, c'ha. Per accordarlo e farlo uscire bene. Quando io sono andato a casa di Coso di Giaguaro, cazzo, mi sento questa voce, mi fa bene, e va avanti, manco pensavo che era Giovanni. Sono Giovanni a Coca-Cola, mi ha detto. Come sto uscendo? Sto uscendo bene? Io ho detto, ma che cazzo di macchina sto usando? Sto usando con gli effetti 50 tuo, mi ha detto. Sono bravo a usarlo. Io ho detto, cerca di spegnere, che me lo brucio, gli ho detto. Ti ha fatto uno scherzo io invece. Allora, salva, ha acceso gli effetti 50 e si vuole vedere a me come l'ho usato. Allora mi hanno modificato tutto. L'ha accordato, lo va a carica a fondo scala, ma una radio allucinata, diciamo. Io non sono mai uscito così bene, però. Sì, veramente ho detto, ma usato quell'apparecchio. Poi io volevo comprare, perché non ricordo, capito? Poi, vabbè, ho dovuto prendere un'altra roba, se no gliela avrei preso, ma sì, questo, se mi capita già glielo conto. A me lo usa con l'antenna grande, ragazzi. L'unica cosa che c'ha di brutto con l'apparecchio, io devi mettere la massa a terra, perché se no ti faccio te scarichi a mano, la pelle che non hai idea. Lo temevo per quello, per quel tipo di apparecchio. Perché c'era il valvole, quindi pratica ti scaricava lo chassis ti scaricava. Allora, vabbè, anche la massa a terra li potevi fare? E poi l'avevo fatta la massa a terra, infatti. Me l'ho messa a tutta forza, infatti, ogni volta che mettevo le cuffie sentivo questo in testa, cazzo, leggero, cazzo, proprio con testa 110 volts, vai, aiuto. Andare, babbo, ragazzo, io devo mollare, aspetta che sono appena fuori frequenza. Devo procurare la roba per domani, che domani si parte alle 5, quindi devo impegnarmi un pochino sulla preparazione. Vabbè, sentiamo più tardi, magari fammi uno squillo quando risolvi, se risolvi, e poi ci sentiamo domani magari, dai. E vabbè, però la rientro, dopo pensargli come si chiama il transistor, e poi vero, se si accendono tutte quelle luci, sta tranquillo che si può funzionare anche per me. E poi dopo il telefono, quando guardano a pilotarlo, vediamo un pochettino cosa esce fuori. Sì, va bene. Poi c'è bisogno di una bella soffiata, quella roba, perché così non va bene. Anche la polvere da fastidio. Sì, quello va bene, non ti preoccupare, già devo cominciare a lavare nella cordatura delle finiture. Ho passato un spazzino da lì, che io punto bene, poi però non ce l'ho, quindi non. Solo che immediatamente quando la accendi va a cordare, ti fa le bruciature, senti perché me l'aveva fatto a me tutto tempo fa. Quando usavo quello di cosa di. Quello che lavava le macchine, che lavava uguale il lineare. Però guardate, Marchisio l'aveva poi smontato, mi ha fatto tutti i pizzi, quindi che ho detto a te. Ah, capimmo. Marco Alfaromeo. Marco Alfaromeo, è proprio lui. Andabex, va bene. Vabbè, dai, ci sentiamo, Antonio, che mi devo spostare. Devo preparare qualcosa per domani, se no faccio tardi. Grazie di tutto, ci sentiamo. Ciao, buonanotte, salutami a Simone. D'accordo, ok, ciao, ci sentiamo domani. Buon lavoro con tutto e a domani. Andabex, ciao.